Zolt. Fulminati in azienda. Allora, signore, si parte. Siamo stati invitati alla 10ª edizione del convegno intergalattico delle imprese etiche in Giappone. Ma è una notizia storica. Finalmente la Fondazione ci riconosce tra le imprese portatrici di valori al carattere planetario. In effetti, era ora. Ma saremo al tavolo con i big, con i top, con i VIP, con le star del management mondiale. Sì. Che notizia. Ci sarà sicuramente Bill. Font, non lo so. Hillary, Steve, Barack, vuoi che non ci sia Michelle? Ascolta, Fon, non lo so, la lista degli invitati non la conosco, però se mi dai retta un attimino è meglio, eh? Scusa, mi sono fatta prendere una notizia storica. Ecco, allora, pensa che vetrina, pensa che risonanza. Io marco sul pezzo che intervengo tra i grandi del pianeta, che illustro come si fa a fare etica in azienda, che illumino le menti, che porto con me il mondo, insomma, che... A proposito, il discorso chi me lo scrive? Centri, preparati che partiamo. Destinazione sollevante. Ho capito, ma che ci vengo anch'io al convegno sulle aziende corette? Ma certo. Centrifuga, tu sei uno degli autori del nostro codice etico. Vuoi che non ti porti in viaggio premio a Osaka? Ah Marco, ma ando sta Osaka? Il Giappone è lontano, non t'ho mai detto, ma io soffro l'aereo, mi viene a cosa. Sì, vabbè, ma Centrifuga, ti lamenti sempre, ma io dove ti ho trovato? In un cestino dei rifiuti ti ho trovato. Ho capito, cioè, io le ho provate tutte, non c'è sta niente da fare, l'aereo non la posso pigliare, mi viene l'ernia, l'ansia. Ascolta, la cosa. Adesso mi ascolti. Tremo tutto. Adesso mi ascolti, Centrifuga. È venuto il momento di dire basta a questa vitarella triste e magra. Hai superato i 40 anni? È da mo' superati. E allora adesso è iniziato il tuo secondo tempo. È ora di dare una svolta a questa vita. Permesso, disturbo. Marco, ho preparato il discorso per il convegno. Lo volete sentire? Ma certo, Fonda. Non vedevo l'ora. Prego. C'è dentro un concetto che va oltre. Sai, tutti vogliono conquistare il cliente, no? Tutti lo corteggiano. Sì. Tutti fanno promesse che non mantengono, magari lo seducono e poi lo trascurano. Sì. Invece noi? Ok, e noi appunto? Invece noi andiamo oltre, noi il cliente lo sposiamo, è una cultura molto Japan, farai un figurone. E prima però dovevamo trovare un cliente che ci sepia. Sì, però potevi anche essere un po' più delicato, Centrifuga. Ma che delicato, quando ce vo, ce vo. Ma no, ma hai fatto andare via in lacrime la Fond, ma che modi sono? Ah Marco, stamma a sentire, te invitano al convegno galattico sulle aziende etiche a Osaka e già mi pare impossibile, una specie di miracolo. Vabbè, intanto è Osaka. Visto che il nostro codice etico non conosce nessuno in azienda e che l'hamo copiato, l'hamo copiato bene, per amor di Dio, però da quello da un'altra azienda. Sì, però fanno tutti così. Ma a parte sto miracolo, tu vai a sto popò desiderato simposio e mi fa una relazione dal titolo "Le aziende stanno all'etica come la famiglia sta a amore". Ma di che stiamo a parlare? Tu mi fai sta metafora? Vabbè, ma no, ma il discorso diceva semplicemente che un'azienda etica è un'azienda che vuole essere responsabile verso i suoi clienti, con cui ha una relazione tipo il matrimonio, una metafora. Ma non lo capisci che tutta sta enfasi sull'etica è un bluff, è come il matrimonio, no? Passato il momento, non è che poi sta roba che hai fatto ti cambia la vita, anzi... Vabbè, insomma, su questo avrei un parere differente. Ecco, una sostanza, se c'ha feder dito e basta praticamente, è come il codice etico, l'hanno fatto e basta, stampato, non è cambiato niente. Ma come non è cambiato niente? Uè, da quando mi sono sposato la mia vita è diventata un girone infernale che non hai idea, ma lo sai tu cosa ti succede quando ti sposi? Allora, secondo te, io, dimmi tu, cosa dovrei andare a dire a Osaka? Dimmelo tu, Centrifuga. Ci vai e gli fai una relazione vera, dal titolo "Tocca esse aziende etiche, purtroppo", e gli fai anche una metafora, è un po' come il matrimonio. Tocca sposarsi a un certo punto della vita, ma sarebbe meglio di no. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.